Grazie, buonasera. Volevo ringraziare anche il gruppo Lode. Stasera le abbiamo fatto fare ginnastica. Grazie Michael, Marika. Che bello avere dei coristi così guidati, così anche dedicati all'adorazione. È bello lodare in chiesa, è una cosa meravigliosa. Ti piace? Non dobbiamo dare mai per scontato quello che è il servizio che c'è dietro per realizzare anche momenti così belli di adorazione. Quindi siamo grati a voi. Melissa, vai via da questo palco. Siamo grati a te, ma puoi andartene. Ora, stasera abbiamo da vivere un bellissimo tempo insieme alla luce della parola di Dio. Ci piace. Però prima di farlo, io voglio dare anche un'altra notizia che riguarda la conferenza. Perché nella conferenza noi avremo l'opportunità speciale di fare festa insieme, in lode e adorazione, con quello che è il nuovo CD di chiesa che sta per uscire. E io voglio anche farvi vedere un piccolo video che è una promo del CD che si sta realizzando, quindi vediamolo insieme. Fantastico, io non vedo l'ora, ho già ascoltato alcuni pezzi di brano e sono bellissimi. Siamo grati a Dio per la possibilità di lodarlo con dei canti nuovi, freschi, che il Signore ispira ai nostri ragazzi ed è meraviglioso. Ed è una ragione in più per venire alla conferenza, perché non avremo solo dei tempi di adorazione e lode, ma il 9 sera, il sabato sera, avremo un concerto di lode e adorazione guidato dal nostro team di lode e adorazione con i brani del nuovo CD, e in quell'occasione avremo la possibilità di acquistare questo nuovo CD e regalarlo a tanti amici. Ci piace? Si chiama Vivo, Vivo, bellissimo. Ora, stasera io voglio parlare del perdono, ok? Andiamo direttamente nella tematica di questa sera e voglio, in introduzione a questo messaggio, dire una cosa che a mio parere è molto importante, da capire della parola di Dio, proprio della Bibbia. Noi dobbiamo comprendere che la parola di Dio affronta tante tematiche diverse, tanti aspetti diversi della vita, della nostra quotidianità e di cosa noi dobbiamo migliorare, aggiustare, cose di cui noi dobbiamo avere rivelazione. E la Bibbia talvolta, non so se vi siete resi conto, è ripetitiva. La Bibbia è ripetitiva su determinate tematiche, su altre tematiche, ci sono delle tematiche che vengono appena accennate, alcuni versi, proprio un accenno viene fatto di alcuni aspetti, anche ad esempio di come fare chiesa, come dovrebbero essere i nostri incontri, c'è scritto poco nella Bibbia e questo ci deve portare a pensare e a comprendere che ci sono degli aspetti più importanti rispetto ad altri. Non sto dicendo che la Bibbia non è tutta importante, la Bibbia è tutta importante, è tutta fondamentale, ma ci sono delle tematiche che evidentemente Dio vuole che siano ben chiare per ciascuno di noi, ed è per questo che nella sua parola, nella Bibbia, lui è ripetitivo a riguardo. Uno dei problemi che io credo che noi viviamo a livello di chiesa e di cristianesimo è che talvolta facciamo delle cose secondarie, delle cose primarie, prioritarie. E poi delle cose invece prioritarie facciamo delle cose secondarie, quando ci deve essere un ordine giusto. Io quando pregavo per il messaggio di oggi, dicevo: Signore, mi stai dando un messaggio che io ho già predicato, una tematica che già ho affrontato con la Chiesa, e del resto mi fai dire delle cose che sono state anche già predicate giovedì, per chi c'era giovedì sera, da un pastore ospite che è venuto da Zurigo e ci ha fatto godere di un tempo di ministrazione, di insegnamento biblico, che ci parlava della grazia. Perché dovrei ripetere questo aspetto? E il Signore mi ha detto, ci sono delle cose per le quali io sono ripetitivo e voglio che voi siate ripetitivi perché sono importanti. Quindi io voglio predicare qualcosa che questa sera forse non ti è sconosciuto, non è qualcosa di nuovo quando mi ascolterai, ma è importante che tu lo ascolti e io prego che tu lo possa ascoltare con una mente fresca e con tanta voglia di apprendere, perché è una tematica che nella parola di Dio viene ripetuta ogni due pagine. Cioè, se tu cerchi a livello proprio biblico la parola perdono, tu trovi più di 100 citazioni diverse, più di 100 parti diverse della Bibbia parlano del perdono. Evidentemente è una tematica importante ed è proprio per questo che io voglio affrontare il perdono con voi, voglio prendere una storia che Gesù racconta sul perdono e vorrei che tutti noi arrivassimo a fine di questa predicazione, di questo insegnamento, con un cuore predisposto a lasciarci guidare ancora nella rivelazione che Dio ci vuole dare su questa tematica, perché è una tematica che sta a cuore a Dio e ciò che è importante per Dio deve essere necessariamente importante anche per noi. Siamo d'accordo? Amen. Volete un buon esempio di come si ascolta una predica? Aurora, posso chiedere, Aurora e Sara, venite qui avanti, venite sul palco un attimo e con le agende dovete venire. Facciamo un applauso a queste due bellissime. Ora, loro non hanno in mano una Bibbia, ma cos'è che hanno in mano? Un'agenda, un'agenda che è stata trasformata in quadernetto. E che fate in questo quadernetto? Scriviamo quello che dici tu. Ah, bene. Allora, e tu che cosa scrivi? Scrivo quello che predicano le persone che sul palco. Bellissimo, bellissimo. Quindi tu già hai scritto Ecclesia, 8 e 9 dicembre, non mancate. Zio Mirko, pregare, ci di nuovo. Perdono. E tu che cosa hai scritto? Sto scrivendo, sono lenta. Lenta. La Bibbia è importante. È ripetitiva. Bravissima, bravissima. Capite che esempio che abbiamo in chiesa, in prima fila? Vogliamo fare un applauso a queste bambine. Grazie. Questo è il modo migliore per apprendere la parola di Dio, perché è una statistica, è proprio si dice che quando ascoltiamo solamente questo non penetra, però quando prendiamo appunti, quando siamo visivi, questo penetra. Quindi vi do la concessione di utilizzare i cellulari, i block notes, le agende, i quaderni per prendere appunti su questo messaggio, ma non solo, come ha detto anche giustamente mia nipote, per tutti i predicatori e per tutte le predicazioni che vengono predicate dal palco. Ci piace questo? Chiunque adesso prenderà questo pretesto per aprire il proprio cellulare, andare a controllare Facebook, verrà toccato dalla mano di Dio istantaneamente. Ora apriamo la Bibbia insieme a Matteo 18:21. Qui è Gesù che risponde a una domanda di Pietro e racconta una storia. Qui è una delle prime volte che ci viene presentata la tematica del perdono dal cuore di Gesù in una maniera così devastante, così radicale. Noi siamo abituati ad ascoltare queste parole, ma per chi ascoltava queste parole per la prima volta, vi assicuro che quello che Gesù sta per raccontare in questa storia è sconvolgente, è stratosferico. Lo leggiamo insieme, Matteo 18 dal versetto 19, anzi no, 21, dice: allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? Pietro, che bravo discepolo. Voleva sempre primeggiare, allora sapeva che il 7 è il numero perfetto, no? È completo. Si dice anche, no, che gli ebrei pensavano che il 3, no, fosse un numero eccellente, che Dio perdonasse 3 volte. E quindi Pietro si spinge oltre e dice: Gesù, quante volte dovrò perdonare mio fratello? Fino a 7, come a dire, sottotitolo, non stai percependo quanto sono bravo e quanto sono buono e quale buon discepolo mi dimostro essere. E Gesù risponde, lo sappiamo benissimo, Gesù dice, devastando proprio il morale di Pietro, e Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, che sappiamo essere un numero che sta a significare infinite volte. Gesù qui dice: noi dobbiamo perdonare quante volte? Infinite volte. Sempre dobbiamo perdonare. E poi va avanti e racconta questa storiella, versetto 23: perciò il regno dei cieli può essere paragonato ad un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e, afferratolo, lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al suo signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. La storia è così chiara ed è così disarmante che predicare risulta anche superfluo su una storia del genere. E basta aprire la Bibbia, leggerla, mettersi in condizione di recepire quello che Gesù sta insegnando e non c'è bisogno di commentarlo e fare prediche a riguardo. Però io predicherò comunque questa sera, pur a lungo, quindi seguitemi. Uno degli elementi di questa storia più stravolgenti sono i 10.000 talenti. Forse noi non ce ne rendiamo conto, non possiamo comprendere fino in fondo, ma i talenti erano un'unità di misura ed era un peso. E 10.000 talenti era il peso di tanto di quell'oro che il debito risulta essere qualcosa di stratosferico. Riportato ai soldi nostri di oggi, Lo comprendiamo meglio se vi parlo di questo debito come quello che è il corrispettivo in anni di lavoro. Sapete quanti anni di lavoro erano necessari per arrivare ad accumulare 10.000 talenti? 200.000 anni. 200.000 anni. Non ho detto 200 anni, ho detto 200.000 anni. Pure 200 anni non sarebbero sufficienti per lavorare abbastanza e condonare il debito, ma Gesù sta parlando di un debito talmente alto che è necessario avere più vite, più generazioni per condonarlo. L'equivalente non è di poche migliaia di euro, non è neanche di milioni di euro, ma è un debito che si stima essere del valore di miliardi di euro. Per l'esattezza, 4 miliardi di euro. C'è qualcuno che ha 4 miliardi di euro? Vorrei vedere la tua mano. Qualcuno coraggiosamente in fede alza la mano. 4 miliardi di euro non è un debito che una persona può accumulare. 4 miliardi di debito è un debito che una nazione può accumulare. Ed è un debito così grande che quando Gesù ha raccontato questa storia, inevitabilmente tutte le persone che lo ascoltavano, in primis proprio Pietro, devono aver sgranato gli occhi e devono aver vissuto un momento di sbiancamento, diciamolo così, cioè di panico. Ma veramente sta dicendo? Cioè, il nostro debito, tu stai dicendo che il regno dei cieli, il debito che noi abbiamo nei confronti del Padre è così grave? È così insormontabile. Comprendere la gravità del debito che noi abbiamo nei confronti di Dio ci fa comprendere meglio il peso della sua grazia, il valore della sua grazia. Sapete, il diavolo cerca sempre di sminuire il peccato, anche nella nostra vita. In fin dei conti, se noi siamo qui in chiesa e preghiamo e leggiamo, questo può portare ciascuno di noi a sentirci un po' a posto, è vero? Un po', non tanto. Però accendi la televisione, senti di rapine, senti di omicidi, senti di violenze sessuali e dici io sono una persona migliore. È vero? Dici io non sono poi così grave, non sono così peccatore, davanti a Dio io sono buono. E il diavolo cerca di fare costantemente questo nelle nostre vite, cerca di sminuire la gravità del peccato affinché noi ci consoliamo di questo sminuire il peccato e lo viviamo pacificamente, anche magari in una maniera nascosta, non rendendoci conto che la parola di Dio dice che il salario del peccato è la morte. Che il peccato è qualcosa di estremamente grave, che questo debito è pesante e grava sulle nostre vite al punto da renderci schiavi. Vedete come descrive nel versetto 25 la condizione di quest'uomo nel debito. Poiché non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e tutto quanto aveva e che il debito fosse pagato. Questo è quello che il peccato fa. Distrugge il nostro destino, ci toglie ogni gioia, ci toglie gli affetti, ci priva delle relazioni. Il peccato è qualcosa di schiacciante ed è tutto attorno a noi, è il motivo per il quale il mondo è quello che è. Ed è così triste accendere la televisione e ascoltare i notiziari è a causa del peccato. E noi non possiamo sminuire, non possiamo stare al gioco del diavolo e pensare che il peccato è innocuo o che noi siamo delle persone migliori e che non abbiamo tutto questo debito. Un'altra cosa che noi comprendiamo da questi 10.000 talenti è che la religione a volte ci porta a credere che in fin dei conti noi possiamo coprire il nostro debito. E non sto parlando di altre religioni, sto parlando proprio del nostro spirito di religiosità. A volte noi veniamo in chiesa, preghiamo, lodiamo alzando le mani e facciamo tutte quelle cose che è giusto che un credente faccia. E poi a un certo punto è come se noi ci sentiamo gratificati da questo e percepiamo che in base a queste nostre opere siamo amati da Dio. Ed è questo quello che la religione ci porta a credere, ogni spirito religioso ci porta a credere. Che se ci comportiamo bene, che se facciamo quest'altra cosa piuttosto che quest'altra cosa, avremo di più il favore di Dio, che Dio ci benedirà e che noi possiamo conquistarci il suo amore in misura dei nostri sforzi e del nostro coprire il nostro debito. Fratelli e sorelle, il debito è qualcosa di terribile, di devastante, qualcosa di schiacciante. Quando poi si tratta di un debito di 10.000 talenti, non c'è opera buona che tenga. Ed è qui che subentra il valore della grazia, la bellezza della grazia, la grandezza della grazia, perché a un certo punto Questo servo si inginocchia, riconosce che non può pagare quel debito e chiede misericordia al suo padrone. E il suo padrone, questo è il verso proprio cruciale di questa storia, nel versetto 27 dice: il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Tua moglie non è imprigionata, i tuoi figli non vengono messi, venduti come schiavi, tu non sarai in prigione, ti viene ridato tutto, e questo non perché te lo sei guadagnato o perché sei riuscito a coprire quel debito, ma perché il tuo Signore è talmente misericordioso, talmente pieno di grazia e talmente pieno di amore che paga al posto tuo quel debito e ti dà grazia di essere sollevato completamente dal peso del debito. Questa è la grazia di Cristo Gesù. Tu sei salvato in virtù di quello che Gesù ha fatto, in virtù del fatto che Lui è venuto su questa terra, perché se fosse stato possibile per te conquistarti il favore di Dio, allora non valeva neanche la pena che Gesù venisse su questa terra, ma Lui è venuto perché la nostra situazione era talmente tremenda, talmente senza soluzione, che solo la sua morte sulla croce ha potuto pagare quel debito enorme che gravava su ciascuno di noi. E noi, da essere in ginocchio, ora ci ritroviamo in piedi, liberi, graziati, con un debito condonato. Posso ricordartelo questa sera? Posso ricordarti che sei profondamente amato da Dio e che il suo amore non dipende da quello che fai o non fai. Il suo amore è più grande, il suo amore è a prescindere. Non c'è nulla che tu possa fare per farti amare di più da Dio e non c'è nulla che tu possa fare per farti amare di meno da Dio. Queste sono storie che noi dovremmo leggere una volta al mese, già solo per ricordarci di quale enorme amore siamo amati da Dio e quanto grave è il peccato. E ora, risollevati per la grazia in Cristo Gesù e comprendendo la gravità del peccato, non rincorriamo più il peccato, non desideriamo più il peccato, lo vediamo come un debito che non deve essere ripreso, ma lo vogliamo abbandonare e vogliamo camminare in santità. La grazia non è infatti la concessione a peccare e a continuare a vivere una vita distante da Dio. Piuttosto la grazia è ciò che ci permette di riconoscere quanto grave è il peccato, quanto buono è il nostro Dio e quale meraviglioso dono ci viene dato di essere tirati fuori dal fango, dalle tenebre, per camminare una nuova vita in Cristo Gesù. Amen? Questa è la prima verità di questa storia. La prima verità di questa storia è che siamo tutti debitori, tutti, dal primo all'ultimo, e siamo tutti privi di gloria, della gloria di Dio, ma salvati per grazia. Ora, la seconda verità di questa storia è che siamo però anche tutti creditori. Avete letto con me la storia? Siamo tutti, in una qualche misura, creditori. C'è qualcuno che sempre, inevitabilmente, ha un debito nei nostri confronti. E di questa seconda verità io voglio parlarvi. Prima di farlo, però, voglio leggervi una lettera simpatica che ho trovato in internet. Non so quanto sia vera, però rende l'idea un po' del paradosso che anche Gesù crea con questa storia. È una lettera che scrive una ragazza ai propri genitori dopo 3 mesi che è stata fuori al college, no? A studiare, è uscita di casa, e dopo 3 mesi scrive questa lettera ai suoi genitori e dice: cari mamma e papà, sono già passati 3 mesi da quando ho lasciato casa per venire al college. Perdonatemi per non avervi scritto prima, vi vorrei aggiornare su questi primi mesi fuori casa e vorrei quindi chiedervi di sedervi prima di leggere questa lettera. Io sto meglio adesso, il trauma cranico e la concussione che ho subito saltando fuori dalla finestra a causa dell'incendio che è divampato nel mio appartamento sta guarendo. Sono stata in ospedale solo 2 settimane e adesso ho quasi del tutto recuperato la vista. Ho solo questi acuti mal di testa una volta al giorno. Per fortuna sono stata aiutata da Roger, quando sono saltata fuori dall'appartamento, è stato lui a chiamare i vigili del fuoco e a portarmi in ospedale. E visto che non avevo più un posto dove dormire, lui è stato tanto gentile da ospitarmi a casa sua. Lui è un uomo davvero buono, a parte il piccolo problema di tossicodipendenza che vive da alcuni anni. Stiamo decidendo di sposarci. Non abbiamo ancora fissato una data, lui sta aspettando di ultimare le carte del divorzio e cercare di ottenere la custodia dei suoi 5 figli. Adesso che vi ho aggiornato su tutto questo, voglio solo aggiungere che non c'è stato nessun incendio, non ho subito nessun trauma cranico, non sono stata in ospedale, non c'è nessun Roger e non sono fidanzata, però ho preso un 4 al compito di arte e un 3 al compito di biologia e volevo che questi voti fossero recepiti da voi nella giusta prospettiva. La vostra amata figlia Jane. Ora, la storia che Gesù racconta presenta questo paradosso, appunto, no? Perché ci presenta prima come debitori di un debito così stratosferico. E la storia di Gesù non ha esagerazioni, come nel caso della lettera di Jane, è la realtà dei fatti. Però il paradosso è proprio questo. I torti che noi subiamo, alla luce di quello che Gesù dice, non sono io a dirlo, sono dei debiti che al massimo possono raggiungere i 100 denari. Quant'è la cifra di 100 denari? Beh, è una cifra importante, non è da sottovalutare. Un denaro è quello che un operaio riusciva ad ottenere dopo un giorno di duro lavoro. 100 denari è quindi quello che possono essere 3 mesi di lavoro, anche poco più di 3 mesi di lavoro. Non è una cifra indifferente. Però la cosa che Gesù ci porta a riflettere è proprio la differenza, il paradosso, quanto è il torto che noi subiamo è imparagonabile rispetto al torto e alla disubbidienza e alla ribellione e al peccato che noi commettiamo e abbiamo commesso nei confronti di Dio. E questo è il motivo per il quale Gesù racconta questa storia, perché vuole che noi percepiamo le cose nella giusta prospettiva. Quando ha risposto a Pietro, no, io non ti chiedo di perdonare 7 volte solamente, io ti chiedo di perdonare 70 volte 7. Per quanto questo potesse essere qualcosa di sconvolgente per Pietro, Gesù l'ha voluto mettere nella giusta prospettiva ed è quello che vuole fare per ciascuno di noi. Tu forse sei talmente concentrato sui torti che hai subito, sulle ferite che ti hanno fatto persone, fratelli, persone vicine, tua moglie, tuo marito, il tuo datore di lavoro, che tutto ciò che vedi e tutto ciò che ingombra i tuoi pensieri e il tuo cuore è il pensiero di questo debito di 100 denari. Ti senti ingiustamente trattato, ti senti che qualcuno ha derubato qualcosa nella tua vita. E Gesù vuole che tu percepisci le cose nella giusta prospettiva, perché è importante che nel recepire la giusta prospettiva che Dio ti dà, tu possa vivere una vita che sia veramente libera. Il desiderio di Gesù nel raccontare questa storia è che noi siamo liberi. Vi rendete conto quante volte viene ripetuto l'aspetto della prigione, di entrare, gli aguzzini, no? C'è questa altalena nella vita di quest'uomo che prima viene perdonato e ottiene questa libertà meravigliosa con tutta la sua famiglia e poi, perché non perdona il suo fratello, si ritrova di nuovo in carcere. E questo è il grido che Gesù alza attraverso questa storia, a dire: io voglio che voi siate liberi. Liberi non solo di quello che è il peccato che avete commesso, liberi non solo del torto e del debito che avete nei confronti di Dio, ma liberi anche di quella prigione che è fatta della tua mancanza di perdono. Io manco di perdono e devo ricordare a me stesso quello che Gesù insegna sul perdono, perché è cruciale per la mia vita. Perché per quanto io sono libero per la grazia di Dio, posso facilmente rimettermi in prigione perché non accetto il torto che subisco da una qualsiasi delle persone che mi passa davanti. Gesù conclude questa storia in una maniera piuttosto forte. Abbiamo già letto. Nel verso 34 il suo signore adirato lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore il proprio fratello. E quando Gesù insegna sulla preghiera, in Matteo capitolo 6, quando insegna su come pregare, propone la preghiera del Padre nostro quale modello. Vi ricordate come finisce quella preghiera? Finisce dicendo: rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. E poi aggiunge, ascoltatemi bene, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Vi rendete conto di quanto sia pesante questa tematica? Di quanto è ingombrante la mancanza di perdono nella nostra vita? Di quanto ci priva di una vera libertà? Forse tu ti sei ritrovato in stagioni della tua vita a pregare, forse sei in una di queste stagioni dove preghi e senti che Dio non risponde, o cerchi la sua presenza e non riesci ad entrare nella sua presenza. È come se c'è un soffitto, un muro che ti impedisce di godere della piena presenza sua e non sai darti una risposta, non sai come mai vivi questa condizione. Posso suggerirti che è probabilmente dovuta alla tua mancanza di perdono. E una cosa forte che mi ha fatto riflettere della storia che Gesù racconta e la sua conclusione è che lui non dice solo di perdonare i nostri fratelli, ma ci mette un aggravante, una parolina che rende tutto un po' più pesante e un po' più difficile, perché dice: così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. E io credo che Gesù non a caso abbia messo quella parola, perché noi come credenti siamo bravi a volte a perdonare nella forma. È vero, io lo so fare bene. E quando qualcuno, quando mi è capitato, no, che avevo un risentimento forte nei confronti di qualcuno e magari ne parlavo con un fratello, con una sorella, e quel fratello o quella sorella mi domandava: ma tu hai perdonato? Io mi fermavo, pensavo e il più delle volte dicevo: sì, ho perdonato. Perché questo è quello che un credente fa, questo è quello che un cristiano fa. Io non riservo rancore, io non sono una persona che vuole vendetta. Però il più delle volte, analizzando sinceramente la mia condizione e analizzando proprio le parole di Gesù, devo dare atto che il mio perdono è stato di forma, ma non di sostanza. Quando Gesù dice perdonare il tuo fratello di cuore, sta parlando di qualcosa che tu non mostri solo esteriormente, salutando quel fratello, no, vivendo comunque una relazione con quel fratello, non evitandolo. Sta parlando di quello che tu vivi intimamente nel tuo cuore quando pensi a quello che il tuo fratello, la tua sorella, tuo marito, tua moglie, il tuo datore di lavoro, il tuo collega, il tuo familiare provoca dentro di te. Gesù è così interessato al nostro cuore. E questa sera lui ti chiede: dov'è il tuo cuore? È veramente libero? Hai perdonato di cuore il tuo fratello? Veramente puoi dire di incontrare quel fratello e non avere nessun risentimento dentro di te? Sapete, questa Questa è un'altra di quelle cose che Gesù ci chiede di fare, che noi non possiamo fare. Possiamo essere sinceri stasera insieme. Perdonare di cuore è qualcosa che nessuno di noi può fare fino in fondo. Perdonare di forma, sì, lo possiamo fare, l'abbiamo imparato anche a fare, no? Io torno in chiesa, anche se c'è quel fratello che magari non tanto mi va genio, col quale ho avuto uno screzio, però io torno in chiesa perché sono un cristiano, io non mantengo l'offesa subita. Però è di forma, di sostanza c'è ancora tanto dolore, c'è una ferita, ci sono risentimenti, rancori, ire, contese, che sono tutte nella tua mente, che sono nei tuoi pensieri e che ti portano, quando sei la sera steso a letto, a pensare a quella vicenda, a quella cosa, come qualcosa che era ingiusto, che non doveva essere fatto, che sei stato privato di qualcosa. Gesù dice: se uno ti colpisce su una guancia, tu porgili anche l'altra. E sta parlando di una ferita. Se uno ti ha fatto del male, sei disposto a riproporgli, a ridargli la possibilità di farti ulteriormente male? O reagirai e al male subito interverrai con del male a tua volta? Però poi aggiunge quest'altra cosa Gesù: se uno ti ruba il mantello, tu dagli anche la tunica. E a conclusione di questo messaggio sto citando queste parole, perché io credo che fortemente una delle cose che più ci fa male è quando veniamo derubati della cosa più preziosa, che sono i nostri soldi. Abbiamo tanta difficoltà a pensare che qualcuno ci possa derubare dei nostri averi, perché siamo così affezionati ai nostri averi, al punto che possono diventare, Gesù dice, un nostro idolo. Il motivo per il quale ci alziamo la mattina e facciamo tutto quello che facciamo fino alla sera è la cosa più preziosa. I soldi vengono prima di tutto. E nel momento in cui una persona ci fa un danno che porta delle conseguenze nel nostro portafoglio, quel danno diventa inescusabile, diventa qualcosa che noi non riusciamo a perdonare. Io non so dove ti trovi stasera, non so qual è il tipo di perdono che devi dare, non so quale debito hai, quale debito qualcuno ha nei tuoi confronti, cosa hai perso? Ma posso dirti una cosa? Lascia andare, sii libero stasera. È Gesù che te lo dice: sii libero, lascia andare, dagli anche il mantello, dagli anche la tunica, dagli tutto. Non essere affezionati ai soldi, non essere affezionati agli averi, c'è qualcosa di molto più importante nella tua vita ed è il tuo cuore e la libertà vera che solo Gesù ti può dare attraverso la sua grazia. Io voglio vivere con voi un tempo di preghiera, perché come dicevo prima, vivere un perdono che è di guarigione, che è del cuore, qualcosa che non decidiamo di fare con le nostre forze, ma è lo Spirito Santo che ci permette di fare. E quindi io voglio chiedere l'intervento dello Spirito Santo questa sera a favore di ciascuno di noi, a favore di ogni persona che in questa sala vuole essere veramente libero. Quindi vogliamo alzarci in piedi, vogliamo entrare in un'attitudine di preghiera. Voglio chiedere a te di chiudere i tuoi occhi, di concentrarti su Dio e concentrarti anche su quello che lo Spirito Santo ti ha mostrato questa sera, perché io credo che al di là delle mie parole lo Spirito Santo ha detto qualcosa di specifico a te, perché Lui ti vede personalmente. Forse ti ha messo in risalto un torto che ancora ti fa male, forse una faccia, forse un nome, forse una circostanza, una situazione. E in questo momento, Gesù, noi veniamo davanti a te, tu che hai insegnato queste parole e che sei vivo e sei presente in mezzo a noi questa sera e non sei lontano. Io prego affinché tu possa intervenire e aiutarci ad essere quel popolo che tu ci chiami ad essere. Un popolo libero dal peccato, un popolo che non ha debiti, è un popolo che non è neanche creditore verso nessuno. Padre, noi questa sera vogliamo che mediante lo Spirito Santo ci sia concessa la grazia di perdonare di vero cuore ogni torto subito. Padre, ci sono in questa stanza persone che hanno ferite nel proprio cuore, hanno un cuore rotto, non sanno più come vivere le relazioni per i torti subiti. E sono imprigionati e il loro carattere si è trasformato, la loro personalità è cambiata per torti subiti, per cose che non avrebbero mai voluto vivere, per ingiustizie che sono state fatte loro. Adesso io chiedo il tuo intervento affinché questi cuori siano guariti. Io prego per liberazione in questo momento. Io prego che in questo momento, Spirito Santo, tu possa fare quello che solo tu sai fare. E se vuoi guarigione in questo momento, ti chiedo di alzare le tue mani e di rivolgerti sinceramente a Dio in preghiera. Perché Lui ti vede, Lui vede i torti che hai subito e che subisci forse giornalmente. E ti dice, tu puoi farcela, tu puoi vivere della mia grazia dando grazia ad altri. Tu puoi godere di quella libertà perché io ti chiamo ad essa e io ti permetto di vivere in essa. Gesù, vuoi tu guarire queste persone, vuoi tu intervenire nelle situazioni e in questo momento vuoi tu dare a noi la possibilità di prendere autorità su tutto quello che viviamo interiormente. Padre, noi non vogliamo subire ancora, noi non vogliamo vivere ancora in una condizione di nervosismo, di ira, di contesa, noi non vogliamo che quel muro sia ancora presente sulle nostre teste. Ma vogliamo libertà e vogliamo che tu ci possa rendere padroni del nostro cuore, capaci di allontanare ogni forma di male, di malizia. Gesù, io prego che noi possiamo essere una chiesa che al male che subisce ricambia con il bene, con l'amore, con la grazia, con il perdono, con la benedizione, con la preghiera. Padre, noi vogliamo in questo momento pregare per i nostri nemici, benedire coloro che ci maledicono. Vogliamo dire bene di loro, vogliamo chiedere per ognuna di queste persone che tu possa benedirli, che tu possa dare a loro delle buone vite, che loro possano prosperare in ogni cosa e nonostante il male che hanno apportato in noi, noi Padre vogliamo lasciarli andare liberi e vogliamo chiedere che tu possa intervenire nella loro vita. Benedici Gesù, benedici queste persone, ciascuna di loro, e io ti prego che la testimonianza della nostra Chiesa possa essere gloriosa perché siamo saturi di amore, saturi di perdono e saturi di grazia, tanto da darla a chiunque. Padre, permettici di vivere tutto questo e lo preghiamo nel nome tuo potente, Cristo Gesù. Amen. Amen. Vuoi rimanere ancora in preghiera? Fai ora la tua preghiera a Dio. Vivi ancora un tempo, vogliamo ancora vivere un tempo di preghiera. Stai in comunione con Lui, digli quello che vuoi, chiedi perdono, lascia andare liberi. Fallo in preghiera, fallo con Lui, non rimanere in silenzio, ma parla al tuo Dio.